E benvenuti, benvenuti allo Stadio della Canoa. Benvenuti. Comincia ora la diretta qui da Radio Bawalla, questa radio sul web che si sente sul web e quindi in tutto il mondo. Radio in soli contenuti Creative Commons e presto stiamo per andare a descrivere quello che è successo fino ad adesso. Sì, esatto. Infatti per chi era qui questa mattina ci avrà sentito blaterare qualcosa riguardo alle gare, insomma, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, ma ne siamo usciti in qualche modo, vero Marco? Assolutamente. Allora, intanto ricordiamo che siamo allo stadio della Canoa di Ivrea. Esatto. E si stanno svolgendo gli Eporedia Active Days. Eporedia Active Days, grande evento sportivo, uno dei più grandi del nord-ovest del paese. Assolutamente. Per quanto riguarda gli sport outdoor, stiamo parlando di kayak, stiamo parlando di MTB, stiamo parlando di corsa, di bouldering, di parkour. Tutta una serie di discipline che appunto si disputano all'aperto. Pensate che questo per il quarto anno di fila porta addirittura ad Ivrea la Coppa Italia. La Coppa Italia. Per quanto riguarda che quale disciplina? Il boulder. Il boulder. Il boulder che sarebbe questa disciplina particolare di arrampicata, nel quale l'atleta affronta un masso o una parete nel più breve tempo possibile. Quindi comincia ad arrampicare, vince chi arriva su per primo. Esatto. Prima invece è partita la gara di MTB Orienteering, grande novità di quest'anno, veramente una sorpresa, una novità assoluta. Qua nel frattempo gente ci attacca la corrente sfruttando la corrente delle Pro di Active Days. Giustamente è una corrente creativa. Ecco, quindi dicevamo la MTB Orienteering è una nuova gara di mountain bike. Sì. Fatta. È un mix fra MTB e Orienteering. Orienteering, che sarebbe la pratica di orientarsi e trovare il più breve percorso possibile per raggiungere un obiettivo su una mappa. Esatto. Noi come Radio Bawalla cosa faremo, Davide? Porteremo tanta buona musica in Creative Commons. Assolutamente. Vi ricordo che tutto quello che ascolterete questo pomeriggio è Creative Commons, quindi potete scaricarlo liberamente dal web senza nessun problema e potrete anche utilizzarlo per montare i vostri video preferiti di sport e di famiglia. Allora, sono le 16.04, quasi 05, anzi 05 in questo momento, e in centro città di Ivrea si sta svolgendo l'esibizione di parkour. Incredibile, di questo e di altro parleremo fra poco, adesso ci ascoltiamo un pezzo in Creative Commons. Questi sono gli Alka Altar e questa è Lost in Transit. A dopo! A dopo! Ciao, ciao, ciao, ciao! Oh, needle nose, where booze and matchaphone. Ed eccoci tornati su Radio Bawalla. Io sono Davide, sono qui con Marco e stiamo trasmettendo dagli Eporè di Active Days. Allora, abbiamo il primo ospite della serata. Sì, della serata. Sono già stanco. Sì, già stanco, Davide, non è serata, è pomeriggio, sono le 4:10. E sono solo i primi 10 minuti di diretta. Benissimo, Marco, prego, prosegui tu che è meglio, io riorganizzo le idee. Allora, innanzitutto, chi abbiamo qui? Ti facciamo presentare direttamente a te, tu sei? Felicia Luisi. Perfetto, e di cosa ci parli adesso? Allora, io sono uno degli organizzatori insieme a Paolo Comparone della gara di runner che si svolgerà domani mattina con partenza alle 8:30 qui sullo stadio della Canoa. Gara di runner, ma non sono quelle gare lunghissime, 40-50 chilometri? Come funziona invece questa gara? Allora, quest'anno abbiamo cambiato tipologia di gara perché diversi anni precedentemente è stata svolta gare di, diciamo, su quelle distanze. Quest'anno la gara l'abbiamo trasformata, abbiamo organizzato una gara di 17,4 km, quindi aperta un po' a tutti. È un misto fra strade e trail, quindi anche per gli appassionati di montagna, diciamo, è abbastanza coinvolgente. Quindi un mix di percorso, abbastanza difficile da affrontare. No, diciamo, altri trail sono anche un po' più complessi. Questo qui, sì, ci sono alcuni punti dove impegnativi, però diciamo sono abbastanza, per chi corre è abbastanza, diciamo, un percorso. Quante iscrizioni ci sono? Allora, momentaneamente siamo arrivati a 80, proprio non sono di 10 minuti fa. Attendiamo ancora un'altra, diciamo, almeno un'altra 20-30 persone che dalle richieste che abbiamo avuto dovrebbero iscriversi fra stasera e domani. Ok, 80 persone, quanto ci può volere a percorrere, allora, il percorso? I primi, noi pensiamo che in un'ora e un quarto e 15 minuti dovrebbero completare il percorso. Poi la valutazione degli altri, diciamo che la gara come punto finale non supererà le 2:30. Volevo invitare i cittadini di Ivrea e Porediesi magari a farsi trovare dunque il percorso, tutta la zona del lago Sirio, sì, lago Pistone e lago Nero. Faremo quel percorso là, sarebbe piacevole per i corridori, magari chi vuole farsi una passeggiata con i bimbi, portarli là. Certo, insomma. Certo, anche perché sarà un bel evento, insomma, come ci auguriamo di sì, diciamo. Ci sono tutti i presupposti perché lo diventi. Sì, i presupposti, diciamo, sono abbastanza fiducioso su questo. Speriamo che la giornata, sembra che il tempo ci assista. Domani le previsioni, le ultime, sono abbastanza ottimali. Bene, bene. Bene, quindi la partenza alle 8:30, se non mi sbaglio. 8:30 di qui, facciamo il piccolo tratto qui del centro e poi ci spostiamo verso i laghi e poi rientreremo dalla zona del Cris, quindi zona Salesiani. Chi vuole magari vedere, ecco, la gara e non vuole magari arrivare subito qui sullo stadio, sì, lungo il percorso, e anche sul sito c'è possibilità di visualizzare un po' il tutto, ecco. Bene, benissimo. Anche sul nostro sito c'è possibilità di riascoltare quello che abbiamo appena detto con te in questo momento su www.radiobawalla.net. Ci ascoltiamo un altro brano in Creative Commons e ti salutiamo dopo. Va bene, ok, a dopo. Questa è A Sleep in the Park dei Liars. Ciao. I'll save it up.